uccelli sciolgono le ali e volano, guardalo volteggiare in ogni sua creatura. Ci siamo noi sconvolti dietro un'avventura. Discretamente andiamo incontro alla tempesta, prima lo separiamo, dopo non ci basta. L'amore di un istante e subito ci prende, quando corriamo forte fugge e si confonde. L'amore male lingue, invidia negli amici, se non ci disperiamo saremo mai felici. Amore di montagna quando ti manca l'aria, l'estate è solo inganno, sconfiggere la noia, la noia. Perché non ci appartiene, è lui che sceglie noi quando si vuole bene, e quando ci abbandona non ce lo meritiamo. Ingannatore falso, con questi ti amo. Amore distruttivo quando non sei maturo, facciamoci del male, chi sarà più cattivo? E tu che piangi forte ti vuoi vendicare, il male che ritorni non si potrà scordare, annullare. Si vuole bene, chi sfida religioni spezza le catene. Amori separati